Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Carissimi ascoltatori, buonasera. Antonio ed io siamo qui per rallegrarvi la serata. Ciao Antonio. Ciao Gesì, un saluto cordiale ai nostri amici e alle nostre amiche. Un benvenuto dopo questo lungo periodo sabbatico in un viaggio nella memoria tra sentimenti, emozioni e ricordi. Eccoci qui di nuovo dopo le varie influenze, vero? Esatto, abbiamo recuperato. Vabbè, comunque siamo qui tutti per voi. Allora Antonio. Tutto bene, allora niente, noi siamo qui oggi con un ospite molto particolare, questa sera con una persona straordinaria che ci racconterà dei nostri fratelli maggiori. Eh sì, avremo con noi la dottoressa Lidia Bosetti, ma prima di tutto ci ascoltiamo una canzone. Ascoltiamo una canzone così, visto che è carnevale, Portami a ballare, Luca Barbarossa. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi. Sarà proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo. E vorrei saperti più felice. Sì, vorrei dirti molte più cose. Ma sai, questa vita mi fa tremare. Sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola allora ti porto via. Saperti più felice, sì vorrei dirti molte più cose. Portami a ballare. Eccoci di nuovo in studio e fra qualche secondo avremo in linea la nostra ospite, la dottoressa Lidia Bosetti. Buonasera e shalom. Buonasera. E shalom Alechem. Buonasera Lidia. Buonasera e grazie naturalmente per il vostro invito. E ben trovata. Grazie. Sempre un grande piacere. Bene, bene. Allora stasera ci parlerà dell'illuminismo ebraico? Sì, illuminismo e sionismo. Benissimo. Inizierei col ricordare che pochi giorni fa, e precisamente il 27 gennaio, si è celebrato il giorno della memoria. Sì. È una ricorrenza italiana e internazionale per commemorare le vittime della Shoah. Sì. Parliamo di 6 milioni, come sapete, 6 milioni di ebrei uccisi, senza poi dimenticare tutte le altre vittime, tra omosessuali, zingari, nemici politici, portatori di handicap e malati di mente, insomma, ecco. E il giorno 27 gennaio 45 è avvenuta la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. Ecco, perché parto parlando appunto del giorno della memoria, perché come ha detto Primo Levi, se comprendere certe cose è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Ecco, i temi che vorrei condividere con voi sono appunto quelli dell'illuminismo ebraico e del sionismo, in quanto sono argomenti anche questi che secondo me sicuramente possono aiutarci a comprendere meglio anche l'attuale, l'odierna situazione in Israele. Il perché di queste continue lacerazioni, di queste guerre, di questi attentati, perché il perché della costruzione di nuovi muri di separazione. Ecco, quindi prima di iniziare con voi idealmente attraverso le mie parole un viaggio sia nello spazio che nel tempo, ecco, dico così, vorrei darvi alcune informazioni storiche che ritengo importanti proprio per poi spiegare bene anche l'illuminismo e il sionismo, naturalmente in breve per non annoiarvi. Benissimo. Ecco, dal 1517 al 1917, quindi diciamo per 400 anni, la Palestina in quanto tale non esisteva, era un territorio sottomesso all'impero ottomano ed era diviso in tre sanjaccati: Acri, Nablus e Gerusalemme. Ecco, quest'ultimo, quindi Gerusalemme, nel 1887 diventa autonomo con un governatore che rispondeva direttamente a Istanbul. Ecco, nella regione in epoca ottomana risiedeva una comunità ebraica di circa 24.000 persone contro i 470.000 arabi, quindi gli ebrei erano circa il 5,1% della popolazione. Nel 1920 la Lega delle Nazioni conferma un mandato britannico in Palestina, è un mandato che fa seguito a precedenti accordi, già nel 1916 c'erano stati in questo senso degli accordi. In particolare poi nel 1917 vi è la dichiarazione Balfour, è chiamata così, e questa dichiarazione Balfour sancisce l'appoggio britannico alle aspirazioni sioniste. È l'argomento di cui parlerò tra poco, e quindi gli insediamenti ebraici in Palestina ebbero un sensibile aumento, incremento. E cominciò da qui a sorgere anche però purtroppo il risentimento arabo e vi furono frequenti conflitti con le popolazioni locali. Ecco, poi facciamo un salto un po' più in tempi più recenti. Nel 1947 il piano di spartizione dell'ONU prevedeva già la creazione di uno Stato ebraico, ma anche di uno Stato arabo, e che Gerusalemme fosse posta sotto l'amministrazione internazionale dell'ONU. Però gli Stati arabi confinanti si opposero a questo piano e invasero Israele immediatamente dopo che Israele aveva proclamato la sua indipendenza in modo unilaterale, e questo nel maggio 1948. Alla fine di questa guerra, quindi 48-49, Israele occupava più territorio di quanto l'ONU gli avesse assegnato. Ecco, circa l'80% dei palestinesi che vivevano in quello che divenne il territorio israeliano fuggirono o furono espulsi nei paesi arabi confinanti. Ecco, anche dopo ci furono altri accordi molto recenti, gli accordi di Oslo 1993, e anche lo Stato palestinese sarebbe dovuto nascere, in particolare nel 1999, ma sappiamo che poi seguirono dei fatti molto gravi, quale l'omicidio di Rabin e poi ci furono appunto le varie intifada, il mancato ritiro delle truppe israeliane dai territori, l'aumento delle colonie ebraiche e la continua erosione di questi territori attribuiti ai palestinesi ad Oslo. Ecco, questo per dire che in un secolo gli ebrei della regione passarono dal 5,1% a circa il 76%. E di questo 76% è importante sottolineare che i nati in Israele, quindi nati dopo il 48, sono il 67%. Però, ecco, queste sono stime di qualche anno fa, sì, a dir la verità. Ecco, ma a questo punto, ecco, la domanda che anch'io mi ero fatta e forse molti si stanno facendo o si sono posti è: ma perché fare uno Stato ebraico e perché proprio lì? Ecco, vi avevo anticipato che vi avrei portato perlomeno con la mente a fare un giro per, certo, l'Europa, certo, certo. Ecco, ma anche sì, nel tempo intendo dire, perché ciò mi dà la possibilità di racchiudere i miei argomenti come dentro una cornice immaginaria. E quindi ecco, inizio il mio discorso sull'Europa partendo da un evento drammatico che è stata l'espulsione degli ebrei dalla Spagna del 1492. Scusi, Lidia, sì? Ci ascoltiamo un brano prima? Sì, va bene. Antonio? Va bene. Perfetto, allora tanto per rimanere diciamo in carattere, anche se non naturalmente non abbiamo pretese che so filologiche o cose di questo tipo, ascolteremo un brano che si chiama Hava Nagila. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite. Sì, approfitto per dire che questo è uno dei brani più belli, secondo me, della musica cosiddetta klezmer, ecco, cioè la musica proprio dei musicisti ebrei dell'Europa centro-orientale. Esatto. Molto bello. Mi attribuisco allora il merito di questa, sì, scelta. È veramente, cioè tradotta dovrebbe significare, perché sì, non ho approfondito, ma con grande gioia. Ah, e, ed è proprio eseguito in occasioni di feste, in particolare dei matrimoni. Ecco, questo per bene, commentare, inquadrare questo il tutto. Benissimo. Brano. Bel brano, sì, sì, effettivamente, sì, coinvolgente proprio. Ecco, prego, prego. E, ecco, volevo appunto partire col mio viaggio immaginario, sì, da un evento drammatico, l'espulsione degli ebrei dalla Spagna del 1492. Infatti, per la prima volta, dopo 500 anni di guerre, la Spagna sconfisse i musulmani e quindi per la prima volta si ritrova unificata. I sovrani Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona decisero che a tutti i costi il loro regno doveva essere un regno esclusivamente cattolico e quindi unito, diciamo, sotto il simbolo della religione e senza la presenza all'interno del loro territorio né di ebrei né di musulmani. E in seguito a questo editto gli ebrei o accettavano di convertirsi subendo, ecco, un battesimo, oppure rischiavano, venivano uccisi, no? Cioè certamente venivano uccisi o cacciati. Ecco, l'Inquisizione compiva tra l'altro indagini, condannava gente al rogo, quindi... Torquemada e Campanile. Esatto, cioè, quindi momenti veramente, tempi tragici, ecco, anche da questo punto di vista. E pochi mesi dopo questo editto la Spagna ufficialmente era priva di ebrei. Quelli che non si erano convertiti, conversos, cosiddetti conversos, o che non erano già stati uccisi, qui circa 170.000, 200.000 persone cominciarono a vagare attraverso l'Europa, ma non solo, anche in Nord Africa. Poi leggevo proprio in questi giorni che dalla Turchia odierna, quindi dall'Impero Ottomano, erano state mandate delle navi, le cosiddette navi della pietà, a cercare di dare un aiuto a questi ebrei che venivano scacciati. Ecco, quindi momenti veramente sono lontani, perché l'epoca 1492, e però qui nella nostra Europa succedevano queste cose. E infatti adesso, proseguendo il nostro viaggio ideale, sorvoliamo questa Europa che la definisco cupa, soprattutto per quanto riguarda la situazione di questi ebrei e degli ebrei che in Europa vivevano veramente dei secoli degradanti dentro i loro ghetti. E con questo nostro viaggio arriviamo nella Russia di fine Ottocento, quindi un bel salto nel tempo e anche geograficamente da Occidente a Oriente. Ecco, e qui uso un termine che sicuramente molti di voi conoscete, cioè pogrom. Pogrom è un termine russo che significa devastazione. E siamo quindi in Russia, per la precisione nel marzo 1881, e quando gli ebrei pensavano in qualche modo di potersi integrare con la popolazione, succede un fatto, un avvenimento: viene ucciso lo zar Alessandro II. E lo zar successivo, Alessandro III, spinge proprio il popolo russo a dare la colpa dell'assassinio agli ebrei. E sappiamo che gli ebrei sono sempre i primi ad essere incolpati di molte cose in varie epoche, in vari luoghi. Ecco, il governo russo in realtà aveva uno scopo politico ben preciso riguardo a questi ebrei, ed era, veniva così riassunto questo pensiero politico, se si può chiamare pensiero, ed era: un terzo degli ebrei doveva convertirsi, un terzo morire e un terzo abbandonare il paese. Mamma mia. Ecco, sono trascorsi 4 secoli, perché dalla fine del 400 alla fine dell'Ottocento, siamo volati con la mente da Occidente a Oriente dell'Europa, ma come vedete la storia si ripete. E durante i pogroms del 1881, cioè la popolazione russa istigata da questo regime cominciò a massacrare con una crudeltà inaudita gli ebrei, e vennero massacrate persino le donne incinte. Ma penso. Ecco, quindi gli ebrei sopravvissuti cominciarono veramente a fuggire a ondate sempre più numerose, e si parla insomma di un vero e proprio esodo. Tra il 1881 e il 1914 ci fu una emigrazione di massa, soprattutto verso gli Stati Uniti. Ecco, nel 1903, quindi ci avviciniamo ai nostri tempi, e quindi all'inizio del 1900, ci fu un altro terribile pogrom a Chisinev, in Ucraina, nell'attuale Ucraina, con devastazioni e massacri che impressionarono il mondo intero, cioè tutta l'opinione pubblica ne fu sconvolta. E tant'è vero che una commissione chiamata Commissione Storica Ebraica di Odessa inviò proprio nella cittadina di Chisinev quello che poi è considerato il poeta della nazione ebraica, Chaim Nachman Bialik, perché con il compito di stilare un rapporto sulle atrocità commesse. Ecco, parlerò di nuovo magari di Bialik, perché più tardi, se ci sarà il tempo, perché l'idea sionista è centrale nella sua poetica. Okay. E ora bruscamente vi riporto un po' in giro per l'Europa, ma in un'altra epoca, cioè un po' prima, nel 1700. Perché nel 1700 succede qualcosa di veramente nuovo. nasce in Inghilterra, ma poi avrà una sua massima espressione in Francia, questo movimento politico, sociale, culturale e filosofico che tutti noi conosciamo col nome di Illuminismo. Ecco, mi piace usare la definizione che ha usato Kant, cioè che definisce l'Illuminismo come l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Infatti, ecco, Illuminismo significa proprio illuminare la mente degli uomini, ecco, per questo diciamo Illuminismo, illuminare la mente degli uomini per farla uscire dalle tenebre dell'ignoranza esatto. E delle superstizioni anche, ecco. Sì, perché chissà quante superstizioni avevano, no? Esatto, soprattutto anche nei ghetti proprio degli ebrei. Da immaginare. Infatti, ecco, anche gli intellettuali ebrei capiscono che l'Illuminismo può essere e deve essere la risposta alla sofferenza delle loro comunità chiuse sia fisicamente che culturalmente dentro ai ghetti. I ghetti verranno aboliti proprio sulla scia dell'Illuminismo e degli eserciti francesi di Napoleone. Infatti, verso la fine del Settecento, finalmente anche gli ebrei furono parificati a tutti gli altri cittadini, pur non avendo una loro nazione, ma vengono riconosciuti come individui ed ottennero tutti i diritti civili. E qui ne sottolineo uno, primo fra tutti, quello del diritto alla proprietà privata, alla proprietà. Se vi ricordate, in un precedente incontro avevo accennato alla importanza della proprietà del terreno per uso cimiteriale, esatto, per gli ebrei. Sì. Ecco, e qui che era l'eccezione che confermava la regola, cioè gli ebrei nei secoli precedenti avevano la possibilità, dove veniva loro concesso, di ottenere soltanto questo piccolo terreno proprio per le sepolture. Per tutto il resto non erano cittadini pari con gli altri. Ma insomma, poveretti, hanno subito di quei trattamenti. E infatti gli ebrei, appunto gli intellettuali, parliamo sempre non delle masse chiuse dentro nei ghetti, ma degli intellettuali ebrei che vedono in queste nuove idee moderniste gli strumenti utili per finalmente entrare a far parte della nuova Europa moderna. Quindi, anche se un po' in ritardo rispetto agli altri movimenti europei, nasce finalmente anche l'Illuminismo ebraico, che prende il nome di Haskalah, che vuol dire comunque Illuminismo, insomma, quindi è la traduzione. Sì. Così impariamo qualche parola ebraica. Ecco. E infatti verso la fine dell'Ottocento, quindi già parecchio tempo dopo, arrivano queste nuove idee della Haskalah e cominciano a diffondersi anche nel chiuso poi degli ambienti di quelli che si chiamano Shtetlach, spero di pronunciarlo bene perché è un termine yiddish, anche questo un miscuglio di tedesco e di ebraico, e questi villaggi sono praticamente queste piccole città ghetto, questi villaggi destinati agli ebrei dell'Europa nord-orientale. Ecco, in questi villaggi la vita era fuori dal tempo, e era una vita proprio ferma al Medioevo. Ecco, ho ricordato ancora che secondo alcuni storici tra l'ebreo del ghetto e il non ebreo c'erano 3 secoli di ritardo. Addirittura. Sì. E alcuni storici dicono che gli ebrei passarono proprio direttamente dall'età medievale a quella contemporanea, senza passare proprio per quella moderna, cioè c'è stato un salto. Deve essere stato un salto molto. Sì. È importante, tra l'altro, perché proprio da qui poi cioè il sionismo avrà radici proprio da queste nuove idee dell'Illuminismo. Infatti i maschilim, che erano i seguaci della Haskalah, cioè gli illuministi ebraici, ebrei in questo caso, si battevano per l'emancipazione del proprio popolo. E sostenevano, ad esempio, sembra una banalità, ma sostenevano che gli ebrei dovevano apprendere le lingue europee, soprattutto quella del paese in cui vivevano. E tra l'altro questi maschilim, questi illuministi, consideravano l'Yiddish, che è la lingua appunto parlata nei ghetti dell'Europa nord-orientale, la consideravano come un gergo incomprensibile, storpiato, da disprezzare, perché era il simbolo di questa chiusura culturale, mentale e fisica dei ghetti. E quindi, tra l'altro, all'inizio gli ebrei illuministi fecero di tutto per farla scomparire questa lingua, senza riuscirvi, per fortuna, dico io. Sì, perché è un ibrido molto, dire, vitale, secondo me. Sì, tra l'altro, all'epoca era parlata da 11 milioni di persone, poche. Una nazione, proprio. Tra Europa e America, gli ebrei che utilizzavano questo Yiddish erano, appunto, questi 11 milioni. Negli ultimi decenni c'è stato anche il rischio dell'estinzione di questo Yiddish, però per fortuna si sono create cattedre anche a Gerusalemme, in altre, ovviamente io sono partita da Gerusalemme, ma anche in America, varie cattedre di lingua Yiddish, e proprio per salvaguardare questa lingua che è importantissima. Tra l'altro, scrittori importanti anche come Singer, esatto, Singer è stato premio Nobel, esatto, della letteratura, e quindi proprio lui scriveva in Yiddish, ecco, infatti qui ha toccato proprio l'esempio principale, ecco, di questa parte di cultura, diciamo. E tra l'altro ho saputo, io non lo sapevo, ma ho scoperto che in Polonia, adesso non ricordo il nome della cittadina, ogni anno c'è un festival della cultura Yiddish. Quindi sia come cultura, come musica, klezmer, come teatro, come un po', ma in particolare proprio anche per la salvaguardia di questa lingua Yiddish. A proposito, ascoltiamo un brano. Sì, un brano della Budapest Klezmer Band. Antonio, che musica particolare. Straordinaria. Sì, una musica molto molto particolare. Elettrizzante. Lidia? Sì, anche perché questa musica, come la lingua del resto, unisce proprio gli elementi del folklore tedesco, polacco, ungherese, rumeno, russo, e quindi è proprio un miscuglio. E poi alla musica si uniscono poi le antiche preghiere, i canti ebraici, ecco, quindi è proprio un vero e proprio miscuglio importantissimo e bellissimo anche da ascoltare. Esatto. Quindi tornando al discorso dell'illuminismo, queste idee nuove di modernità hanno però anche l'altra faccia della medaglia, cioè portano come conseguenza il rischio della perdita dell'identità, che noi definiamo assimilazione, e anche la rinuncia a norme basilari dell'ebraismo. E tutto, comunque, anche questo adeguarsi alla modernità non è per gli ebrei una garanzia contro il pericolo delle discriminazioni o delle persecuzioni. Tra l'altro, ecco, apro una parentesi, il problema dell'assimilazione è stato presente ed è presente anche in tempi recenti, infatti se ne è parlato, era uscito un po' di anni fa un articolo su un quotidiano importante dal titolo Ebrei, ora il rischio è l'assimilazione. Anche il presidente Amos Luzzatto, in una intervista, disse che gli ebrei devono far fronte a due rischi opposti, la ghettizzazione e l'assimilazione. Il primo, secondo Luzzatto, gli sembrava insomma scongiurato, il secondo no. Ecco, e torno appunto alle idee della Scala dell'illuminismo, dicendo che proprio in seguito a queste idee cominciano a nascere in Europa i nuovi movimenti che possiamo definire precursori del sionismo. Ecco, il termine sionismo deriva da Sion, che è la collina su cui sorge Gerusalemme. E nomino soltanto un paio di intellettuali o pensatori tra quelli che diedero inizio a questi movimenti. Ad esempio Ahad Ha'am fu leader di un movimento che sosteneva la necessità della creazione di una comunità ebraica autonoma in Palestina, che doveva fare da proprio intesa come guida spirituale dell'intero popolo della diaspora, proprio per difenderlo dal pericolo dell'assimilazione, ma anche di un impoverimento culturale. Un altro leader, Leo Pinsker, che era un medico e scrittore russo, è considerato il precursore di quello che viene definito il sionismo politico. Infatti egli sosteneva il diritto della nazione ebraica di possedere un proprio territorio. Ecco, nel 1873, quindi fine 800, in una regione che si trova nel territorio odierno dell'Ucraina, nasce quello che è considerato il poeta della nazione ebraica di cui avevo fatto accenno prima, Chaim Nachman Bialik. Ah, sì. Sì, è importante nel nostro discorso perché l'idea sionista è centrale nelle sue poesie. E per Bialik il popolo ebraico doveva ridiventare vitale, rivalutare il suo passato, e secondo Bialik doveva proprio trovare un luogo dove rimettere, diciamo, ritrovare la sua anima. Un luogo fisico, quindi. Sì. E questo luogo, secondo Bialik, poteva essere per Bialik solo la Palestina. Sì. Ecco, qui però aggiungo una cosa, che molti altri movimenti che vanno un po' definiti col nome di territorialismo, che rientrano in questo gruppo, diciamo, chiamato dei movimenti territorialisti, pensavano anche a luoghi diversi dalla Palestina. E magari, se ci sarà il tempo, magari vi parlerò un po' di più di questi territorialismo, di questo territorialismo. Sì. Perché sì, è bene sottolineare che per Bialik e per certi sionisti l'importante era avere un luogo in Palestina, ma non per tutti, ecco, e questo era importante anche per rispondere, poi per provare a rispondere alla prima domanda che ho fatto, che è perché proprio in Palestina e perché insomma questo stato ebraico. Sì. Ecco, Bialik sentiva veramente l'ambiente del ghetto squallido e strano, lui comunque era un intellettuale, aveva studiato, aveva viaggiato, quindi vedeva che criticava con rabbia quasi quel modello di vita ebraica. È bello immagine da immaginare, perché esatto. Veramente. Infatti lui ad esempio voleva una scuola nuova dove lo studio della tradizione religiosa, quindi lo studio della Torah, venisse però integrato da materie di cultura generale, moderna, le scienze, le arti, le lingue. E quindi, cioè, tutta questa, diciamo, la coscienza ebraica sembrava fiaccata da anni di isolamento e di esilio. E come si diceva prima, cioè nei ghetti, i ghetti sia fisici che mentali, le masse sembravano apatiche, gli ebrei erano spaventatissimi e superstiziosi ed erano anche vittime di un loro stesso giudaismo vecchio, obsoleto, che non cambiava mai, non si adattava alle nuove esigenze, ed erano questi ebrei chiusi in questi luoghi malsani e retrogradi. Però, la parola giudaismo, scusi Lidia, sì. Da cosa deriva? Giudaismo si intende proprio la situazione che si è creata dopo la distruzione, in pratica dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C., del Tempio di Gerusalemme, ma anche prima, quando ci fu la deportazione in Babilonia del popolo ebraico, non c'era più un centro religioso unico, cioè a Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme. per cui cominciarono a nascere i rabbini, la figura del rabbino. Ah, sì, sì, sì, sì. E in ogni, diciamo, che nasce una corrente, diciamo, religiosa che sostituiva in qualche modo il centro culturale che era quello di Gerusalemme. E il Tempio, quindi. Il Tempio, perché purtroppo, essendo deportati, essendo poi anche con la diaspora, quindi sparsi in tutto il mondo, si temeva che andassero perdute le radici religiose del popolo ebraico. Per cui nasce questa figura del rabbino. Il rabbino sarebbe come i nostri sacerdoti. Esatto, no? Diciamo, no? I capi delle comunità, sì, sì, sì, perché poi c'erano comunità in Nord Africa, in Oriente, in Occidente, cioè quindi in molti riti. Voi avete sentito parlare sicuramente del rito Ashkenazi, esatto. Quindi degli ebrei del nord Europa, ma poi c'era il rito Sefarditi, della Spagna, spagnoli, esatto. Esatto. Sì. Per cui c'era bisogno di unificare, di tenere unita anche questi riti che tendevano a diversificarsi, e avevano bisogno comunque di una guida, ecco. E queste guide che poi diventarono, cioè in ogni popolazione, diciamo così, c'era una guida, avevano bisogno appunto di strumenti che per unire questo ideale religioso in maniera che non andasse perduto e che non si allontanasse dalle origini, ecco. E quindi diciamo che con giudaismo si intende, poi qui ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo, però si intende soprattutto questo. Quindi nei ghetti il giudaismo obsoleto va inteso come, cioè, queste masse di ebrei seguivano quello che veniva loro detto nelle sinagoghe, sì, sì, dal loro capo religioso, diciamo. Sì, sì, sì, io capisco. Ecco, e quindi, per riallacciare il filo del discorso, cioè queste nuove idee sono anche da un certo punto di vista un problema per gli ebrei, perché si trovano costretti a scegliere se rischiare di sparire come identità culturale o rassegnarsi alla solita sofferenza passiva, diciamo, a subire. Sì, sì. Quindi, da un lato il terrore dell'assimilazione, della perdita della propria identità, e dall'altro invece un continuo subire persecuzioni. È una continua pendolazione, una continua oscillazione senza trovare un centro, come dire, di gravità permanente. Esatto, proprio per la mancanza di un centro. È proprio questo il concetto principale, anche di Bialik: trovare un luogo dove ricomporre l'anima di questo popolo, e quindi per Bialik poteva essere la Palestina, sì, sì. Ma per altri potevano essere altre zone, ma l'importante era avere una terra dove ricreare un po' quello che era stato il centro di Gerusalemme, col proprio tempio e quindi con la propria unità religiosa. Sì, avere un loro, una propria identità, appunto, se no veramente erano così, sì, sì. Sparsi per il mondo e terrorizzati, ecco, quindi senza un'idea di unità, se non quella religiosa, perché loro dentro e all'interno dei ghetti la loro cultura, parlo sempre a livello di massa, era quella che derivava dalla lettura della Bibbia, quindi quella era la loro, diciamo, cultura di base. Un attimo solo, Lidia, sì? Che ci fermiamo per un brano. Per un brano da Sanremo 2000, è una coincidenza, diciamo, che tra poco avremo la nuova edizione. Qui abbiamo invece Goran Bregovic. We'll be right back. nema više meseca. Nema tebe, nema mene. Ničeg više nema jo. Pokrila nas ratna dama. Pokrila nas dama jo. A ja se pitam, moja draga, šta će biti sa nama? Mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj, joj, joj, sad je nesa. Niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to si ja. Hanno anche delle musiche allegre, però hai sentito che musiche sono? Beh, queste in particolare sono veramente, ti viene voglia di ballare. Sì, no, ma anche vedi che tutto sommato nella loro tristezza però cercano anche, forse di... è un antidoto proprio, sì, alla appunto tristezza. A questo infatti niente, ecco, torno un po' indietro al discorso dei pogrom. Dicevo che questo grande poeta fu inviato a Kishinev in Ucraina per stilare un rapporto su queste atrocità del pogrom del 1903 e ne esce veramente sconvolto, ma anche arrabbiato e amareggiato nel vedere questo popolo sottomesso che subisce, che non agisce, e scrive un'opera fondamentale che è una poesia intitolata Nella città del massacro. E ne scrisse due versioni, una in ebraico e una in yiddish, e l'ebraico non era ancora la lingua del quotidiano, l'ebraico diventerà la lingua nazionale dello Stato di Israele nel 1948, sì. E dopo una lunga battaglia, la cosiddetta guerra della lingua, perché c'erano i sostenitori dell'ebraico da una parte e i sostenitori dell'yiddish dall'altra, e lui scrive appunto la sua opera sia nella lingua sacra, santa, l'ebraico, che non era, era la lingua biblica e quindi i temi eterni, diciamo così, mancava dell'impatto della quotidianità, non era una lingua adatta al dialogo quotidiano, alle cose piccole della giornata di un uomo. E però Bialik riesce a renderla proprio la lingua letteraria, dando inizio proprio a quel progetto che poi si realizza appunto nel 48, facendo dell'ebraico la lingua nazionale. Però la scrive anche nell'Yiddish, perché come vi ricordate all'inizio dicevo che i maschilim avevano fatto di tutto per cancellare questo che definivano un gergo, era il simbolo della chiusura dei ghetti. E lui la scrisse proprio questa poesia in Yiddish perché voleva essere capito da tutto il suo popolo. Certo. Prima vi dicevo che 11 milioni di persone parlavano questo Yiddish e conoscevano qua esclusivamente, la maggior parte delle persone, esclusivamente lo Yiddish. Esatto, avrebbero cancellato l'identità di questo popolo. Certo. Esatto, e soprattutto per farsi capire, cioè quando uno vuol farsi capire deve adattarsi alla lingua davanti, dell'interlocutore. È stata tradotta anche in italiano qualche poesia. Sì, io in particolare se poi ci sarà il tempo, sì, posso anche leggervi qualche brano. Ho questa poesia Nella città del massacro con il testo originale in Yiddish, che però io non conosco, a fronte, e l'italiano, insomma, cioè ho la traduzione in italiano col testo a fronte originale. Ma sarebbe importante leggere qualche poesia. Infatti, ecco, poi magari mi dite voi quando, sì, se ho qualche minuto, e vi leggo in particolare l'inizio e una parte centrale che secondo me esprime proprio questa rabbia di questo poeta verso il suo popolo. Mm-hmm. E tra l'altro questa poesia è importante anche oggi perché letta con gli occhi odierni, diciamo così, e si capisce che sembra proprio un annuncio tragico di eventi che non erano ancora avvenuti nel 1903. Quasi una profezia. Una profezia rispetto alla Shoah. Ah. E sembra, si può leggere tranquillamente come se fosse stata scritta dopo la Shoah. Quindi questo riconferma ancora una volta che per secoli, cioè quello che hanno subito gli ebrei, io avevo accennato alla Spagna del 1492, in Russia fine 800, ma poi abbiamo nel 900, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, cioè lo sterminio degli ebrei. Sì. Quindi ecco, questa poesia secondo me è veramente impressionante proprio perché ha varie possibilità di lettura. E quindi ecco, ribadisco, se vi la possiamo magari sentire, certo. Ecco, niente, per riassumere, ecco, perché un po' sono uscita anche dal discorso, il sionismo moderno nasce quindi nel tardo 800 come movimento di risorgimento nazionale e politico che discende direttamente dalla Scala, quindi come conseguenza delle idee dell'illuminismo. Ed è la risposta, ma anche una reazione alle violente persecuzioni, cioè i pogrom, a cui erano soggetti gli ebrei dell'Europa dell'Est, e anche come conseguenza dell'antisemitismo diffuso anche in Europa occidentale. E quindi come movimento politico il sionismo nasce proprio per organizzare il ritorno degli ebrei in Palestina. E questo avrà successo perché dopo mezzo secolo di attività diplomatiche, di insediamenti, ma anche proprio a causa dello sterminio nazista, che è un trauma veramente globale, esatto. È una piaga veramente. Nel 48 tutto questo portò proprio alla fondazione dello Stato di Israele. Ecco, ufficialmente il sionismo, cioè inteso come organizzazione sionista mondiale, nasce nel 1897, infatti in Svizzera ci fu il primo congresso sionista voluto da Theodor Herzl, che fu il teorico del sionismo, il fondatore di questo movimento, e lui voleva proprio stabilire, anche lui era propenso alla Palestina come destinazione per il proprio popolo, e voleva uno Stato ebraico che fosse giuridicamente riconosciuto a livello mondiale. Giusto. Ecco, perché questo lui si rese conto, aveva capito che per raggiungere questo scopo doveva per forza avere l'appoggio delle potenze mondiali, tant'è vero che lui viaggiò parecchio, ad esempio andò ad incontrare il Kaiser in Germania, ma anche il Sultano dell'Impero Ottomano, per chiedere aiuto in questo senso, e tra l'altro furono incontri fallimentari, soprattutto quello con il Kaiser Guglielmo II, addirittura Herzl fu mandato via o congedato, insomma, con atteggiamenti antisemitici. Sì, sì. Ecco, e tra l'altro, ecco, qui potrei anche rientrare nel discorso del territorialismo, perché siamo proprio nel momento giusto per dire che ci furono altri movimenti che lottavano, oltre al sionismo vero e proprio, che lottavano per trovare una terra per il popolo ebraico, e questi movimenti appunto vanno sotto questo termine di territorialismo, e cercavano anche dei territori purché sufficientemente grandi, ma non necessariamente in terra di Israele e neppure necessariamente pienamente autonomo. Sì, ecco. Sì, cercavano almeno un appoggio. Alcuni leader sionisti avevano già considerato la possibilità di creare uno Stato ebraico, ad esempio in America del Nord o anche America del Sud, in particolare in Argentina. Poi, ecco, e qui lo dico perché qualcuno mi aveva anche chiesto se sapevo qualcosa, e nel 1903, quindi proprio all'epoca del pogrom di Kishinev, il governo britannico presentò il cosiddetto programma per l'Uganda britannica, che offriva appunto in Uganda o comunque nella zona dell'attuale Kenya una terra per lo Stato ebraico. E quando Herzl vide che i suoi viaggi, i suoi incontri col Kaiser, col Sultano non avevano avuto risultati, esatto, erano stati inutili, egli incontra di nuovo il segretario delle colonie inglesi, che appunto gli propone questa autonomia regionale in Uganda, e nonostante Herzl fosse lui, come Bialik, convinto che l'obiettivo fosse la Palestina, però visti i tragici pogrom di quel momento, e decise di presentare il programma al sesto congresso sionista come misura temporanea per gli ebrei russi in grave pericolo. Purtroppo però questa proposta, anche se aveva un carattere provvisorio, non fu bene accolta, soprattutto da parte della delegazione degli ebrei russi presenti al congresso. E questo aveva comunque dei validi motivi, cioè era un progetto che non attraeva gli immigranti, nel senso che gli ebrei russi che dovevano scappare dalla Russia, cioè non erano attratti dall'idea di andare in Uganda. Certo. E neanche i banchieri, i finanzieri ebrei americani o comunque di tutto il mondo non erano convinti di dare il loro praticabile, sostegno, esatto, finanziario. Ecco, mi permetto così di, come posso dire, di stringere un attimo la questione, se possiamo sentire quella breve poesia, sì, perché sì, abbiamo tempi molto ristretti, ecco, ormai. Allora io leggerei i primi, proprio l'inizio della poesia e poi un altro pezzetto. Benissimo. In mezzo, perché leggerla tutta è comunque lunga. Un frammento, certo, così tanto per capire. Ecco, io non sono un'attrice, non so recitare, ma mi limito a leggerla. Benissimo, sì, benissimo. Ecco, nella città del massacro, un cuore di ferro e acciaio, freddo, duro e muto, batte in te, vieni uomo, entra nella città del massacro, devi vedere con i tuoi occhi, toccare con le tue mani, sugli steccati, i pali, sulle porte e i muri, sul selciato delle strade, su tutti gli alberi, il sangue annerrito e raggrumato con le cervella e dei fratelli morti, teste e gole. Mamma mia. Devi vagare tra le rovine, tra pareti abbattute con porte sfondate, davanti a forni sventrati, camini crollati, nere pietre divelte, mattoni anneriti, dove fuoco, ascia e ferro hanno inscenato ieri una danza feroce per le nozze di sangue. Ecco, questo è l'inizio. Mamma mia, che sì, che immagino. Allora, io purtroppo non conosco il Yiddish e neanche il tedesco, che potrebbe aiutare in questo caso per la pronuncia, ma immagino letto, per chi conosce questa lingua, letto nel tedesco, ecco, nel Yiddish, ma deve essere estremamente efficace. Sì. Con un suono durissimo come è la lingua tedesca, certo. Cioè, immagino veramente l'impressione. Ecco, e qui poi a metà dell'opera il Bialik scrive: guarda, figlio dell'uomo, guarda in quell'angolo, dietro quella botte, dietro quella panca, fidanzati, fratelli, mariti, figli e padri, ansimanti di paura, si sono nascosti, sbirciando dai loro buchi, come laggiù ci si dibatteva e ci si sgozzava del loro stesso sangue e disgusto. Qui è l'accusa di cui parlavo, contro la viltà, in questo caso proprio degli uomini, dei maschi, che guardano la violenza subita dalle proprie mogli. Infatti poi si capisce un po' più avanti. I sacri, puri, pii corpi violati da uomini e ferri immondi. Mamma mia. E dopo aver visto di nascosto e in silenzio, sì, sì, non si cavarono gli occhi, perché secondo il poeta, come minimo, avendo visto una cosa così tremenda, uno avrebbe dovuto perlomeno togliersi gli occhi, cavarsi gli occhi. Non si strapparono i capelli, non impazzirono. E poi continua dicendo che le donne, le sopravvissute, hanno visto i loro uomini uscire strisciando dai buchi, correre in sinagoga dal loro Dio, e qui proprio c'è tutta la vigliaccheria, sì, sì, a benedire il suo santo nome e fare al rabbino la pia domanda: mi è ancora permessa mia moglie? Mamma ecco mia. Sì, veramente, io quando leggo queste frasi sono tremende. Brivido. Vabbè, ecco, comunque niente, ormai il tempo è ormai quasi scaduto. Ah. E quindi naturalmente salutiamo la nostra ospite con, grazie, una colonna sonora che credo lei conoscerà, sia, che assolutamente, da Noah, Life is Beautiful, ah, sì, la colonna sonora della vita è bella. Bellissima. Lidia, grazie di grazie tutto. E alla prossima volta. Grazie inevitabile. A voi. Grazie. Arrivederci. Love as if you were a child, smile to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. Life is beautiful that way. Cosa ti pare? È stata una bella... di emozioni straordinarie, è sempre un qualcosa di coinvolgente, una cosa eccezionale. Certo, quella poesia ti dà la misura di come... La poesia è un distillato praticamente di emozioni, di sentimenti, di ricordi, quindi queste cose... Noi siamo un popolo smemorato e quindi credo che a maggior ragione... Sarebbe bene ricordarlo sarebbe spesso. Sarebbe bene ricordare non solo in una giornata della memoria, ma ricordare sempre che cosa... può l'essere umano in termini di abiezione, ma anche in termini di eroismo, in termini di solidarietà e compagnia. E queste sono cose che sembrano retoriche, se vogliamo, in realtà sono la base della convivenza certo civile. Certo che questi ebrei sono stati veramente delle storie da raccontare personalmente, ma la farò eventualmente in una prossima occasione. Non fai in tempo occasione. Da piccola. Però diciamo è solo per incuriosire, per capire che questa mescolanza di etnie e cose del genere è una ricchezza e non è un impoverimento collettivo. Beh certo, certo. Bene. Allora niente, non ci resta altro che dare appuntamento alle nostre amiche e alle nostre amici la prossima volta, ringraziando per la loro pazienza. Allora anch'io vi saluto affettuosamente come sempre dicendovi ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.